Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Qual è il giorno in cui andate a fare la spesa, ammesso che abbiate un giorno fisso? Se fosse oggi, vi accompagniamo noi, chiamateci e noi in diretta vi consiglieremo come fare acquisti intelligenti e soprattutto salutari. Siamo quello che mangiamo, l'abbiamo ripetuto più volte, ma siamo anche quello che scegliamo e compriamo. Vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh? Da chi? Dallo charcutier alla cantonata. E chi è questo charcutier? Il pizzicagnolo, il salumiere. Il casaduoglio. E parla chiaro. Il bottegaio. Oh. Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 kg di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco. Poi ti fai una bella boatta di pomodoro, eh? Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. Ti fai dare 1 kg di salsiccia. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quella c'è la macchina trita carne. Piglia la pelle, l'infila, trrrtata, trrrtata, te la fa davanti a te. Chiaro? Vogliamo fare la bella padellata di uova? Assicurati che siano fresche, eh? Tu le agiti. Se sono fresche te le pigli. Se no, desisti. Qua in studio con me è tornata a trovarci e ne siamo molto contenti il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging, autore di Mangia che ti passa, un libro di cui abbiamo parlato, un libro di grande successo che continuate a richiedere. Buongiorno intanto dottor Ongaro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottore, c'è chi vive la spesa come un momento piacevole, quasi di relax, chi la vive come una tortura, chi aspetta che il frigorifero e la dispensa siano vuoti prima di decidersi ad andare a fare scorta, chi invece ogni giorno come una formichina acquista qualcosa, chi fa la lista, chi va a memoria, insomma ad ognuno la sua spesa. L'importante però è fare quella giusta per le nostre necessità. Beh, l'importante infatti è che ci sia sempre più spazio per prodotti sani e sempre meno spazio per prodotti tra virgolette spazzatura che ci rovinano il fisico e la salute, e quindi quello che di cui parleremo oggi immagino sia un buon suggerimento per le persone oggi e negli altri giorni che andranno a fare la spesa. Se ci dicono i problemi che hanno nel fare la spesa, noi oggi li aiutiamo a fare le scelte giuste. Cosa mettete nella borsa della vostra spesa o nel vostro carrello? Fate la lista, non la fate, andate a memoria, avete un giorno fisso. Ci sono arrivati già dei messaggi da Facebook, perché come sempre Laura Vanossi anticipa il tema della nostra trasmissione sulla nostra pagina Facebook, che vi invito a visitare, a chiedere alla nostra amicizia come a scaricare la nostra puntata. Abbiamo Giuseppina che ci scrive: compro giornalmente quello che mi serve, ho sempre con me la lista di ciò che mi serve, molto organizzata. Vuole leggerne uno anche a lei? Beh, Enrico invece cita il dottor Berrino, che conosciamo grande, tutti e che, ha scritto molti ottimi libri su questo tema, in particolare anche sulla nutrigenomica, che è un tema che mi è molto caro. Quindi Enrico, fai bene, segui quella lista. Il dottor Berrino un grande, che inviteremo presto in trasmissione. Laura invece: niente lista, guardando gli scaffali mi viene in mente quello che devo prendere. Allena la memoria anche. Sì, perché può essere un buon esercizio. Poi abbiamo Olga: faccio la spesa da sola, non ho un giorno esatto, non mi occorre la lista, ho tutto in mente, compro prodotti di stagione che si risparmia. Dottor Ongaro. E poi c'è anche un commento qui senza nome ma molto bello di una persona che dice che fare la spesa la fa rilassare molto. Magari fosse così per tutti, no? Visto che è una cosa che dobbiamo fare, se la prendiamo per il verso giusto sicuramente stiamo meglio. A me non dispiace fare la spesa, ci metto però parecchio tempo e dimentico sempre qualche cosa. Ma dottor Ongaro, voi dite spesso che è importante, quando noi andiamo a comprare un prodotto, a leggere l'etichetta. Lei ci insegnerà anche a capire come dobbiamo farlo. Ma c'è, cari amici, l'effetto cornice. Ve ne parlerò tra poco insieme a un ricercatore italiano di nascita inglese d'adozione, traducetelo come un cervello in fuga, che per prima ha scoperto i meccanismi cerebrali di questo effetto, con cui inconsapevolmente ci misuriamo ogni giorno e forse più volte al giorno, anche quando siamo a fare la spesa. 800 24 00 24 se volete fare la spesa con noi, se avete dei dubbi e se volete sapere tutto sull'effetto cornice. Avete appena cominciato una dieta dimagrante e siete al supermercato. Mentre state facendo la fila alla cassa per pagare, vi viene voglia di cioccolato e decidete di cedere. Ci sono tante tavolette, ma due attraggono la vostra attenzione. Su una c'è scritto «contiene il 40% di grassi in meno», sull'altra «contiene il 60% di grassi». Quale comprate? Chiamateci 800 24 00 24, scriveteci al 349 238 6666. Io intanto saluto il professor Benedetto De Martino, neuroscienziato dell'University College of London. Buongiorno professore. Buongiorno. Lei è stato folgorato dall'economia mentre faceva un dottorato in neuroscienze a Londra. Esatto, esatto. Leggendo un libro lei ha detto mi butto anche sull'economia ed ecco esatto. Quindi un cervello veramente a 360 gradi che si occupa di economia e di neuroscienze. Sì, è una nuova disciplina che sarà nata negli ultimi 7-8 anni, quindi è nata insieme a me, al mio interesse. Professore, che cosa c'entra la cioccolata, si chiederanno gli ascoltatori, con gli studi sui meccanismi dell'effetto cornice di cui lei è il maggiore esperto? C'entra, ed è un esempio credo abbastanza semplice e comprensibile, di questo fatto che le nostre scelte non sono puramente razionali come l'economia classica vorrebbe. Secondo l'economia classica noi dovremmo scegliere solo in base alle percentuali, ma il semplice fatto che le percentuali ci sono rivelate in maniera diversa, questo ci influenza enormemente. E questo è un effetto che è stato scoperto negli anni 70 da due psicologi israeliani, Kahneman e Tversky, e nel 2003 credo, io ho pubblicato uno studio in cui siamo andati a guardare i meccanismi cerebrali e quello che abbiamo scoperto è che non è semplicemente un errore, spesso è stato considerato una semplice distrazione, ma non sembra essere questo. Il motivo per cui noi e tutti noi abbiamo questo effetto cornice è dovuto al fatto che la nostra amigdala si attiva. L'amigdala è l'area del cervello che processa le emozioni, è quello che rende gli esseri umani umani. Quindi ci piace. E quindi non è uno sbaglio, ma è l'amigdala. Sì, non è uno sbaglio e le potrei fare altri esempi in cui avere questo effetto cornice, che sarebbe tenere in conto il contesto, ci può aiutare enormemente nella vita. Per esempio, le faccio un esempio, abbiamo studiato anni dopo che soggetti autistici hanno molto di meno questo effetto cornice, quindi paradossalmente li rende più razionali in queste scelte, cadono meno in questa trappola, però poi le posso far vedere esempi in cui questo diventa anche un handicap per loro in altre situazioni. Ad esempio nella vita non andiamo solamente a fare la spesa per caricare la dispensa, ma professore De Martino, quali sono altre occasioni in cui l'effetto cornice ci tira un po' uno scherzo? Ecco. Un esempio che io trovo che mi turba parecchio è un lavoro che fu fatto negli anni 80 in cui presentarono degli oncologi esperti un caso di paziente con un tumore al polmone e si doveva scegliere tra la radioterapia e la chirurgia, e l'operazione chirurgica aveva una chance, c'era del pericolo che il paziente potesse morire durante l'operazione. Ora, quando la statistica a questi medici veniva presentata in termini di tasso di sopravvivenza, la maggior parte di loro sceglieva di fare l'operazione. Quando veniva presentata la stessa statistica, un po' come il cioccolato di prima, in termini di tasso di mortalità, la percentuale di medici che sceglievano di fare l'operazione a questo paziente calava drasticamente. Quindi si rende conto, un po' scioccante, però è quello che dobbiamo fare i conti, che è il modo in cui gli esseri umani ragionano, è che il proprio medico quella mattina decide se fare un'operazione o no, semplicemente da come la statistica gli è stata presentata. Oltre all'effetto cornice, professore, quali altri condizionamenti avete studiato? Ce ne sono tanti, bisogna innanzitutto capire che, accettare forse, che il nostro cervello ha dei limiti e del modo in cui le informazioni viene processato è molto particolare. Noi siamo esseri umani, non siamo dei robot, non siamo dei computer. Un esempio classico che ricordo legato a un episodio che mi capitò in America, questo era un fenomeno che avevo studiato, che lo chiamavano l'effetto delle marmellate, una cosa del genere, che praticamente quello che scoprirono è che nonostante normalmente si assume che avere molte più scelte è meglio di averne poche, l'economia classica proprio prevede che più scelte ci sono e più siamo felici, avevano dimostrato che quando le scelte sono troppe la gente si confonde e non sceglie bene. Bravo, è quello che capita a me. Ed è capitato a me in maniera esagerata quando mi trasferì a vivere negli Stati Uniti, in cui le scelte nella società americana, che è una società fortemente a stampo capitalistico, sono enormi. Andai, dovevo fare la spesa, ero appena arrivato in America e dovevo comprare del latte, mi ritrovai di fronte a un banco in cui c'erano centinaia di tipologie di latte diverse, con vitamina D, senza vitamina D, 3%, 4%, senza grassi, con grassi. Io volevo il latte normale, non sapevo a chi chiedere cosa fosse il latte normale. Dopo che sono rimasto 5 minuti davanti allo scaffale, mi sono incominciato a sentire confuso, ho detto vabbè, non bevo latte, mi bevo una tazza di tè. Professore, dato che lei non ci può accompagnare a fare la spesa, perché tra l'altro tra poco ritornerà in Inghilterra, ahimè, due consigli, due dritte agli amici che ci stanno seguendo. Ad esempio, le voglio leggere Manuela da Cuneo, che ci scrive: bell'argomento, per me fare la spesa è una punizione, è una noia, spero tanto che la vostra trasmissione riesca nel miracolo di farmi prendere l'occasione della spesa con più filosofia, soprattutto in coda alla cassa. Professor De Martino. Le dico un paio di cose che sì. Sono legate ai nostri studi. Per esempio, non andate a comprare il latte in America, la prima cosa. Non andate a comprare il latte in America. Un altro aspetto su cui noi abbiamo grossi problemi è predire come staremo fra 5-6 ore. Io, se ho mangiato, ho appena finito di mangiare e vado al supermercato, di solito io non compro niente perché penso sono sazio ora, e poi ritorno a casa e verso le 9 ho una fame da lupo e trovo che nel frigorifero non c'è niente. E avviene la cosa opposta: quando siamo molto affamati non dovremmo mai andare a fare la spesa, perché carichiamo il carrello di molto di più di quanto consumeremmo, proprio perché quando poi ritorniamo a casa abbiamo poi mangiato un piatto di pasta e ci saziamo, certo, mentre al momento in cui facevamo la spesa. Quindi primo consiglio: scegliete l'attimo giusto, non andate a fare la spesa troppo affamati, altrimenti spenderete un sacco di soldi e magari poi butterete un sacco di cibo. Ma io direi anche non andate a farla appena avete finito di mangiare, perché vi ritroverete con un pacchetto di liquirizie nel che tra l'altro delle virtù. Comunque, dottor Ongaro voleva intervenire. Professore, una domanda così che mi interessava farle era questa: lei sa benissimo ovviamente che le industrie conoscono molto bene i meccanismi delle neuroscienze e li usano a scopo commerciale. Secondo lei saremmo in grado di rovesciare questo paradigma e usare le neuroscienze per far adottare stili di vita sani nelle persone? Sì, ed è uno degli scopi di questa disciplina che qui ci proponiamo. Uno dei promotori è un economista, si chiama Richard Thaler, che ha pubblicato un libro tradotto in italiano che si chiama La spintarella gentile, che vi consiglio di leggere, in cui dice esattamente quello che il dottor Ongaro diceva. Quando noi sappiamo che ci sono questi meccanismi, lo Stato dovrebbe fare due cose: evitare che le compagnie li sfruttino come una trappola, certo, ma anche utilizzarli a buon fine per far mangiare le persone meglio, per esempio evitare, far capire effettivamente quanto è il pericolo e il rischio, certo, di certe cose. Per esempio, ora stanno in Inghilterra, non credo sia ancora in Italia, sui pacchetti di sigarette non mettono semplicemente il messaggio che il fumo fa male, ma addirittura mettono delle foto molto molto scioccanti. Però, e questo perché si sa che il nostro cervello è visuale, quindi una foto ha molta più potenza di mille parole. Però speriamo che le parole arrivino, perché noi oggi insegniamo a fare la spesa ai nostri ascoltatori, vogliamo farla con voi. Per cui se state in macchina, state andando al supermercato o magari in bottega, insomma vi state muovendo, 800 24 00 24, chiamateci in diretta dagli scaffali, ma chiamateci anche se la spesa la farete nei prossimi giorni, se l'avete fatta ieri. Ci sono tanti dubbi che stanno già arrivando. Professor De Martino, spero di averla qua una volta in carne e ossa, grazie. Sarà un piacere, grazie a voi. E buona giornata. A proposito, per andare prima di andare via, questa benedetta cioccolata, quale delle due compro? Io vado a comprarmi della mozzarella, quindi risolvo il problema. Così. Grazie professore, buona giornata. Adesso via le vostre telefonate. Antonio da Roma, se avete dei dubbi, se volete dare dei suggerimenti, il dottor Ongaro è qui con noi. Buongiorno Antonio. Buongiorno signora Nicoletta. Buongiorno a lei. Io la sento molto volentieri, è già una ventata d'aria fresca la mattina quando la sento. Grazie Antonio! Veramente, la sua voce dà molta, diciamo, sicurezza, oltre che dolcezza. Grazie. Volevo dirle, a proposito del quiz, no, della domanda, sì. Mm-hmm. Che, diciamo, questa constatazione che dicevate, io l'ho fatta molto perché da molto tempo faccio la spesa, e quindi ovviamente tutto quello che diceva il dottore si constata pure in Italia oltre che in America adesso. Sì. Cioè, io penso che la risposta è il 60% perché mi dà un numero certo, mentre meno il 40%, meno di che cosa? Allora, Antonio, sono in molti che si fanno questa domanda per il dottor Ongaro. 60% di grassi e il 40% risulta, sono poi la stessa cosa. Sì, però credo che abbia ragione l'ascoltatore, perché tutto sommato noi abbiamo bisogno di certezze, quindi vorrei sapere dall'etichetta quanti grassi ci sono, non quanti meno ci sono rispetto esattamente a che non cosa. Non vorrei fare delle sottrazioni, come si dice. Esatto, non dobbiamo fare dei calcoli. Antonio, regola numero uno, noi per fare la spesa vogliamo la chiarezza. Grazie ad Antonio anche per i complimenti che sono sempre graditi, mi rincuorano. Loredana ci chiama da Bolzano. Buongiorno Loredana. Sì, buongiorno. Io volevo, riguardo all'effetto cornice, riferire un episodio che mi è accaduto quando i miei bambini erano piccoli. Sì. Allora, io premetto, sono una madre che cucina tutto sano e non prende mai, compra mai merendine, proprio perché sono contraria al contenuto, ai grassi idrogenati, zuccheri fini, raffinati, eccetera. E un giorno, quando era successo che mio figlio, che aveva 5 anni, aveva ascoltato la pubblicità che davano alla televisione di una nota merendina che diceva mangia sano, torna alla natura, e questo bambino mi ha guardato e mi ha detto ma che stupidaggini stanno dicendo lì, sano dove, quale natura, che le merendine contengono solo grassi che fanno male e troppi zuccheri. Io capisco Loredana che suo figlio poi è allevato da una mamma che è molto attenta, che prepara, che legge le etichette, è un bambino però dottor Ongaro non possiamo neanche demonizzare così le merendine. No, credo che la questione sia mettiamo nella lista della nostra spesa a proposito di merendine, che cosa le mettiamo? Nella lista della spesa non le metto, però è chiaro che non le demonizzo perché ogni tanto può succedere di mangiarle, però devo dire sono anche d'accordo con l'ascoltatrice su una cosa, cioè non è tanto il problema che le merendine ci siano, che vengano mangiate saltuariamente o meno, ma è spacciarle per un cibo naturale. Allora anche qui è un meccanismo di vendita che insomma è poco veritiero. Allora, tra poco noi dobbiamo andare a sentire i mercati, il meteo e poi di nuovo insieme, però io voglio salutare Nicola Dante Basile, giornalista, scrittore, che è qui in studio con noi, ha scritto numerosi libri, uno di cui ci occupiamo, il penultimo che ha scritto, New Menu Italia, pubblicato da Baldini Castoldi, dalla Editore. Intanto ciao Nicola, grazie. Buongiorno per essere con noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, noi guarderemo la spesa ma anche con un occhio al portafoglio, cercheremo di capire come sono cambiati i modi di fare la spesa, perché la popolazione sta invecchiando, ci sono i single, c'è la crisi, quindi occhio anche a quello che spendiamo. Noi vogliamo risparmiare, evitare di buttare, ma soprattutto scegliere quegli alimenti che, come insegna il dottor Ongaro, sono capaci di farci del bene, perché come sappiamo l'alimentazione, quello che mangiamo, parla a un linguaggio e parla ai nostri geni e li attiva. Se volete sapere cosa comprare, cosa mettere nella vostra spesa, che cosa mettere nel vostro carrello, alimenti che parlano, che usano un linguaggio buono e quindi vi fanno stare bene, 800 24 00 24. Essere e benessere. Tu arrivi a casa a 7:30 dal lavoro, distrutto. 5 secondi dopo entra lei, apre la porta, guarda, è da stamattina che ho voglia di pollo arrosto. E tu dici, no, peccato, andava anche a me, ma sono già le 7:30, la rosticceria è chiusa. E in quel momento vedi che lei si illumina, e come lei si illumina a te un brivido corre per la schiena, lei guarda l'orologio e fa, ma amore, il brivido diventa terrore, ma amore... Ma sono le 7:30, ma l'iper chiude alle 9:30. E non so se avete mai fatto caso che in tutti gli iper dopo le 8 sono quasi tutti uomini. Obiettivamente anche con delle richieste imbarazzanti. Che vedi questi poveretti? Sì, i pannolini. pannolini, ma ce n'è tanti qua, con le ali. E vola adesso, dai, che mi sembrava morta l'ultima volta che... No, non ti arrabbiare, amore, con le ali ce ne sono 6 o 7 tipi, li prendo tutti. Allora, questo è già difficile, mandare il marito a comprare gli assorbenti, invece noi faremo una cosa molto più semplice, cercheremo di fare la spesa, innanzitutto proviamo a fare una lista ragionata, dottor Ungaro, e ci facciamo anche aiutare naturalmente da Nicola Dante Basile, perché la spesa è cambiata. Dottor Ungaro. Ma direi, partiamo da questo concetto che grosso modo metà di un pasto dovrebbe essere dedicato alle verdure, se facciamo i rapporti circa metà del carrello dovremmo vederlo pieno di verdure, quindi certamente le verdure fresche di stagione meglio, ma non preoccupiamoci, anche se per comodità dobbiamo scegliere i surgelati, vanno bene anche quelli. Ci deve essere spazio per la frutta. Io consiglio molto i legumi, che sono anche una buona fonte di calcio e una buona fonte di proteine vegetali. Sicuramente il pesce, scegliamo i pesci di piccola taglia, lo sgombro, le sarde, le sardine, possibilmente pescate nei nostri mari. Le carni magre, l'olio d'oliva, soprattutto in un paese come l'Italia, certamente non facciamocelo mancare. I carboidrati, come sanno probabilmente già gli ascoltatori, vanno sicuramente inseriti, ma prediligiamo quelli integrali, che hanno un impatto sul metabolismo, sulla glicemia, molto meno violento, e arricchiscono l'alimentazione di fibra, cosa estremamente importante. E cerchiamo di non di eliminare, ma di ridurre al minimo tutto quello che deve essere un'eccezione, quindi i dolci, le cose molto lavorate, molto raffinate. E tornando all'idea dello studio dell'etichetta, ma insomma l'etichetta più corta è, meglio è il cibo, meno ingredienti troviamo, sicuramente più quell'alimento è nella sua forma naturale. Io suggerisco sempre ai miei pazienti, se l'etichetta è molto lunga cominciate a insospettirvi, se vedete dei nomi che non capite lasciate lì, perché l'etichetta deve essere comprensibile. E ricordiamo anche un altro dato, che il primo ingrediente è sempre quello che c'è in quantità maggiore, quindi se trovate per primo lo zucchero vuol dire che ce n'è veramente molto. 800 24 00 24, Salvatore da Napoli, buongiorno. Buongiorno, volevo fare una domanda al dottor Ungaro. Io sono uno che ha letto il suo libro con grande interesse e faccio parte di quel 22% che lo segue alla lettera. L'ho consigliato anche a tanti amici e sono tutti contenti e stanno bene. Ho perso 6 kg in 6 settimane, come giustamente diceva. Questo anche è un promo di quelli. Sì. Allora, Salvatore, venga la domanda, perché poi abbiamo molti ascoltatori. Io vivo in Sud America, nella foresta amazzonica. Allora, il dottore dice che bisogna, la mattina, per riscaldare il corpo, bisogna prendere mezzo bicchiere di acqua calda, tiepida, con limone e con un cucchiaino di olio di oliva. Io al posto dell'olio d'oliva ho un olio che esiste lì in Sud America, si chiama olio di sacia inci, che contiene il 43% di omega 3, 20% di omega 6 e omega 9. Quindi questo va nella direzione giusta, perché in effetti il dottore consiglia omega 3 attraverso le noci, attraverso tutti gli alimenti. Quindi lei ha trovato un olio che lo contiene, dottor Ungaro? Beh, sono intanto stupito di avere un fan nella foresta amazzonica, perché già questo è un record, e direi che l'olio va benissimo. Allora, 800 24 00 24, Nicola, mangiamo, compriamo meglio rispetto a 20 anni fa? Come è cambiata la spesa degli meglio italiani? Meglio non lo so, sicuramente diversamente, perché negli ultimi 25 anni c'è stato un notevole cambiamento di quello che si è messo nella spesa. Il carrello della spesa, e in 25 anni per esempio, cioè, c'è stato un crollo, diciamo, della spesa in termini assoluti, ma a valori deflazionati. Sì. Si è passati per esempio da 252 euro per famiglia media mensile a 230 euro, mentre a valori correnti c'è stato un incremento dell'85%, da 252 euro a 486 euro oggi. Quindi questo dà la dimensione del cambiamento. Da un punto di vista invece del prodotto, dei vari prodotti, c'è stato un notevole cambiamento. Per esempio, nel settore delle carni sono aumentate le carni bianche, sono in generale le carni sono diminuite rispetto al pesce che è aumentato. Vedi, dottor Ongaro, di questo siamo contenti. Sono frutto anche dei messaggi lanciati, in effetti. Certo. No? Poi dopo c'è da discutere sulle carni bianche, perché se sono animali allevati in gabbia rispetto a una chianina che pascola, non so cosa sia meglio. Però sono risposte agli stimoli che sono stati dati alle persone. E se avete delle domande di questo tipo da fare al dottor Ongaro, 800 24 00 24, un animale allevato in gabbia o una chianina, come diceva il dottor Ongaro, libera? E non solo carne, pesce, verdura, non tutte le verdure sono uguali, contengono vitamine, sali, minerali, ma bisogna saper scegliere. Nicola? Anche, voglio dire, sono aumentati per esempio i formaggi, e le uova e il pesce, e sono diminuiti naturalmente i grassi, è diminuito il consumo di alcol, alcol inteso sia come super brandy, diciamo brandy o vino, ma anche birra. La birra forse è aumentata in termini, diciamo, assoluti, ma in termini generali l'alcol è diminuito rispetto a molti anni fa. E naturalmente tutto questo ha portato a un cambiamento anche, cioè la motivazione di tutto questo, motivi economici, motivi etici, motivi religiosi, motivi sociali, nel senso che sono cambiati, è cambiata, diciamo, la nuova fisionomia del consumatore. Non c'è più il consumatore famiglia in quanto tale, ci sono consumatori single, ci sono consumatori che rispettano determinate religioni, per cui questo ha portato a un cambiamento notevole della spesa. E nonostante questo, noi sappiamo che buttiamo molto di quello che compriamo. Circa, Nicola, ma guarda, mi dicevi un 30%? Le ultime ricerche parlano del 30% di prodotti acquistati mediamente, ragazzi, buttati via. Ragazzi, 30% della spesa buttata. Quello che compriamo, ecco, mangiamolo, compriamo un po' meno. Ecco, meglio allora, dottor Ongaro, lo chiedo anche al collega Nicola Dante Basile, la spesa una volta alla settimana, potendosi organizzare, oppure tutti i giorni compriamo solo quello che in quel giorno sappiamo di poter mangiare? La nutrigenomica ci dà un indirizzo sotto questo aspetto? Ma guarda, io credo che non ci sia una regola assoluta in questo, credo che poi dipenda anche molto dalla fattibilità e dalla vita che le persone conducono. Io vorrei sottolineare un'altra cosa: in America si parla molto in questo momento di mindless eating, che si potrebbe tradurre come un mangiare senza riflettere su ciò che mangiamo. Questo è un esempio, bisogna riacquistare una consapevolezza, usare il cervello e quindi comprare le cose che sappiamo che ci nutrono bene, e quelle che compriamo usiamole invece di buttare via metà spesa a fine settimana. Allora, io sento Fabio, prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, abbiamo tanti ascoltatori, la parola a voi subito dopo il traffico. Ho scelto Fabio però, che così dà inizio a questa carrellata di domande o di commenti. Buongiorno Fabio, benvenuto. Buongiorno, io porto la mia esperienza, sono da 15 anni la persona che fa la spesa in casa mia e da 10 anni faccio parte di un gruppo d'acquisto. Da quando faccio parte del gruppo d'acquisto, il mio atteggiamento nella spesa è molto migliorato. Il professore parlava prima di mindless eating, e far parte di un gruppo di acquisto aiuta ad acquisire una consapevolezza negli acquisti, a partire dalla qualità dei prodotti, dal criterio con cui si sceglie, che forse non è sempre il criterio del prezzo più basso, ma spesso deve essere quello della qualità del prodotto, e al discorso del chilometro zero, piuttosto che della eticità del prodotto, ovvero preferiamo produttori magari del territorio piuttosto che importati, eccetera eccetera. Ecco, tutto questo fa sì che quando io vado adesso al supermercato, a parte che vado sempre con la mia lista, sì, perché se vado con la lista compro quello che c'è sulla lista, certo, e poco più, e non mi faccio abbindolare, o spero di non farmi abbindolare, dalle sirene del marketing. Quindi è poco sensibile all'effetto cornice, i gas, ci si può iscrivere anche su internet naturalmente, vero Fabio? Sì, ci sono... ormai il movimento dei gruppi di acquisto solidale è diffuso in tutta Italia. Basta andare sul sito, ci dia il sito, che così lo dà lei che è esperto, www. Mi sembra sia www.retegas.org, ma poi basta digitare gas e viene tutto. Gruppo di acquisto. Un'esperienza suggerita, Fabio, grazie. Un'esperienza suggerita e consigliata da Fabio. Essere e benessere. Allora, Allora, metà del nostro carrello dovrebbe essere occupato, secondo la Nutrigenomica, da verdura, lei dice, e poi anche un po' da frutta. Certo. Meglio insistere sulla verdura o sulla frutta? No, tutte e due devono essere presenti. Ovviamente la frutta ha una quota di zucchero, di fruttosio più importante, quindi sicuramente tra le due la verdura è la regina, ma insomma entrambe devono essere presenti. 800 24 0024, Alberto da Verona, buongiorno. Alberto? No, abbiamo un attimo di problemi con gli ascoltatori che sono in linea e sono caduti. Dante, Nicola, tu dici che in un momento di crisi però le persone spendono comunque in prodotti che sono più costosi. Sì, oggi si tende a risparmiare il tempo. Beh, evidentemente questo è il fenomeno degli ultimi anni. Le grandi catene della distribuzione hanno ampliato gli spazi per i piatti pronti e per i prodotti della frutta, della verdura di quarta e quinta gamma, cioè quei prodotti già prelavati e già pronti per andare in tavola. Allora, io vorrei chiedere al dottor Ongaro, se non ho tempo e voglio mangiare le verdure, voglio mettere la metà del mio piatto con le verdure, posso comprare anche questi prodotti qui, che sono più costosi, però se io non ho tempo o non li mangio, o li mangio così, li mangio o non li mangio? Ma io credo che bisogna essere pratici e poco dogmatici, quindi la risposta per me è sicuramente sì. Credo che in questa fascia di prodotti in cui che si sta sviluppando sempre di più, che è quella che ci fa risparmiare tempo, ci siano anche dei prodotti buoni, quindi non sono tutti da buttare via. Tina ci chiama dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno dottoressa. Niente, la mia era una buttata più che altro. Dico, poiché le grandi aziende della distribuzione ovviamente usano la tecnica del layout, del display, eccetera. A me piace fare la spesa. Sentivo un'interlocutrice che mi ha preceduto che diceva che odia, ma sicuramente non è una buon gustaia. A me piace anche cucinare, ho fatto un corso di cucina, benché sia single, eccetera, però lo faccio anche per amici e per altri, certo, eccetera. E sono spesso, soprattutto quando sono alle casse, vedo questa gente quasi tutta grassa, obesa, con dei carrelli strapieni. Certo che alla grande distribuzione non conviene, però se mettessero dei grandi specchi gli specchi alla cassa, Tina, è troppo forte. La gente magari si vede e dice oddio ecco. Forse ecco, questo qua lo lascio qua, Tina. Probabilmente sarebbe una maniera anche per risparmiare sulla sanità. Certo. Voi, perché tutta questa gente poi finisce in ospedale. Allora, il consiglio di Tina può essere, dato che al supermercato lo specchio penso non lo metteranno mai, prima di andare a fare la spesa guardatevi allo specchio. Alberto da Verona, buongiorno. Alberto? Ma Alberto mi cade sempre, e noi abbiamo dato la precedenza ad Alberto, che era un po' di tempo che era con noi, adesso l'hanno ripescato, ma non mi fido più. No. Allora, dottor Ongaro, andiamo sui carboidrati. Mm-hmm. Mi scrive un ascoltatore: dolci, semplici, complessi, come li scegliamo? No, quello che io suggerisco è di prediligere nettamente i carboidrati integrali. Non ha molta importanza il tipo, cioè il farro, il kamut, la pasta normale, l'importante è che siano integrali, proprio per l'effetto che dicevo prima, cioè la riduzione dell'impatto sulla glicemia e l'apporto di fibra, che è estremamente importante per la funzionalità e la salute dell'intestino. Allora, dato che noi abbiamo di solito un primo pasto, che è quello della colazione, poi abbiamo il pranzo, molti italiani lo consumano fuori, ma l'Italia è lunga, è fatta anche dei borghi di borghi, e la cena. Vogliamo, secondo un po' il suo ripescare dal suo libro, alcune indicazioni per fare la spesa, per assicurare una buona prima colazione, un pranzo e una cena? Beh, io credo che per il pranzo e la cena la cosa più utile da dire sia di cercare, nel limite di possibile, di utilizzare più un concetto di piatto unico in cui la quantità di carboidrati sia leggermente inferiore rispetto al classico primo piatto all'italiana, che poi ovviamente ci riempie e lascia poco spazio appunto alle verdure. Molto utili sono le zuppe e i minestroni, perché essendo ovviamente meno densi di calorie hanno anche una facilità nel farci perdere peso. Posso comprare anche quelli surgelati, quelli già confezionati, quelli nelle buste, quelli nei tetrapack, quelli... Credo proprio di sì, perché altrimenti, ripeto, le soluzioni teoriche sono belle, però poi non le applica nessuno. E la colazione è molto importante, i cereali integrali, come dicevo prima, sono anche utili per la colazione, e la frutta ovviamente. Allora, devo dire che Tina, noi la recupereremo, perché voglio invitarla in trasmissione. Devo dire, proprio fatto centro, perché tantissimi di voi mi scrivono: Tina è un genio, grande Tina, E in, la anche signora degli specchi. La signora degli specchi. Credo che faccia parte di quel concetto di stimolare la consapevolezza, no, nel consumatore. Ed è quello che cercheremo di fare noi. Allora, noi abbiamo avuto un problema con le telefonate perché abbiamo diversi ascoltatori che sono caduti, però se volete scriverci su Facebook le vostre domande, chiederemo al dottor Ongaro di chiamarci e di rispondere a voi, magari sul nostro profilo, e di rimandare anche al suo Senz'altro. Sito. Ringrazio Nicola Dante Basile per essere stato con noi, ricordo il suo libro New Menu Italia, il dottor Ongaro. Io vi aspetto lunedì, come sempre, dopo il GR delle 11. Essere e benessere.